Con Roberto Martorelli, Museo del Risorgimento a Bologna, ma la sede è per un incontro di presentazione, la sede non sarà questa, ce ne parlerà Roberto a breve per un incontro che ci vedrà tra passato, presente ma anche futuro. Di che si tratta, Roberto, e buongiorno. Buongiorno a tutti, si tratta della possibilità da oggi di poter viaggiare quando si vuole, in qualsiasi orario, all'interno del cimitero di Bologna. In che modo? Dell'UMESCO, virtualmente. Ok. Quindi i musei civici di Bologna, come Museo Civico del Risorgimento, abbiamo realizzato questo prodotto che consente di fare un'ampia passeggiata in una parte dell'area monumentale, perché l'area monumentale è sterminata, quindi avere un viaggio virtuale in 27 ettari è un po' complicato. Quindi offriremo la possibilità di esplorare soprattutto una zona che è una delle più affascinanti del cimitero, ma che non è tra le più frequentate perché non è, diciamo così, lungo il passaggio più usato dai cittadini e da chi va all'interno del cimitero. E si potranno vedere alcune cose interessanti. E quindi i visitatori saranno dotati di? È un viaggio che si può fare tranquillamente anche con lo smartphone, quindi ovviamente da PC viene molto meglio, per le dimensioni dello schermo, e ovviamente se uno ha un visore, quindi chi gioca spesso col computer potrà vederlo in maniera molto più immersiva, perché il lavoro è immersivo, quindi c'è proprio la possibilità di sembrare all'interno del cimitero, di spostarsi liberamente, di girare, di ascoltare audio, video e testi di approfondimento. Per ogni momento di questa passeggiata. Quindi queste realtà hanno anche delle collaborazioni, le vogliamo citare? È un progetto dei musei civici che è stato, diciamo così, finanziato in proprio, e sono state ovviamente coinvolte di esperti del settore, in questo caso lo studio Namioka, che ha realizzato il prodotto per noi. Sì, immaginavo ci fosse tutto ciò, perché c'è un aspetto tecnico importante, insomma. Molto complesso, tra l'altro. E quindi schede che possono essere visualizzate sul video che accompagna il visitatore, informazioni, voci, racconti, particolarità, se ho capito bene. Sì, sì, è proprio un'esperienza immersiva, ovviamente girando si vedono dove sono i punti di interesse a cui si può accedere a dei contenuti. È stato fatto uno splendido lavoro, perché è un lavoro di rielaborazione di decine di migliaia di immagini, quindi è stato anche un lavoro per avere la luce, per esempio, omogenea in tutti i luoghi, quindi è un lavoro piuttosto complesso che consente proprio di sentirsi di essere lì. Ovviamente il prodotto non va a sostituzione della passeggiata, ecco, reale, ma vale come invito alla passeggiata reale all'interno del cimitero monumentale. Ci sono scadenze, ci sono orari, oppure una cosa che chiaramente, essendo, è totalmente fruibile? È totalmente fruibile, totalmente gratuita, e da oggi è online, quindi tutti da qui alla Cina o certo, l'Antartide hanno la possibilità di questo gran tour virtuale. Se qualcuno in Antartide si vuole riscaldare con le atmosfere del cimitero, potrà. Certo, io ti ringrazio tantissimo e ti auguro buona giornata. A te.